cigano dall'aria triste appassionato, che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore in altro cuore incatenò. Suona solo per me, o violino gigano, forse pensi anche tu un amore lancio sotto un cielo lontano. plus besoin d'être. Tu ris ?